Sì, ciao qua. Ci sogno, buonasera. Ciao qua, stavo ascoltando un attimo fa, sono passato a contare 23 ore all'ospedale che stanno dicendo. Sì, vabbè, quando vi graziamo è sempre una gionfa. È incredibile, sempre allegro, è beato lui. Beato lui vuol dire che sta bene, che non ci sono problemi. Quando uno è allegro vuol dire che funziona tutto ok. Così si dice, diventa allegro, Dio d'aiuta, e speriamo che sia così veramente. E allora, gappa gappa, vabbè, io allegro non sciolgo, ma se sto bene lo stesso. Uscia. Allora che c'è bisogno che abbia dolore. E stamattina c'era un freddo, ma freddo ballo. Ah, stamattina io avevo il giubbotto, altro che il giubbotto leggero, quello sì, però avevo il giubbotto. E mi sono messo anche una felpa a maniche lunghe, perché fino a ieri ero sempre a maniche corte e con la maglietta estiva. Basta, mi sa che il tempo adesso è il caso di mettersi qualcosa di più pesante, perché si sa, non si sa mai, arriva l'influenza. No, c'è la felpa, io sono uscito alle 8, ma aspetta, c'avevo la felpa gruppo invernale, una corrente che tira un gasobra, eravamo sotto nei canali praticamente dei porticati, no? Freddo, aria fredda, ha migliorato un pochino a metà mattinata, ma diciamo che in linea di massima c'è la freschetto sempre lì. Adesso sta iniziando nuovamente, non so se usci di rubo giù, ho visto che accende la roba al lavoro e ho visto che sta iniziando nuovamente a abbassare la temperatura la sera, ma l'ha detto, mi ha detto che praticamente c'è questa perturbazione, ancora non è che sia freddo, però c'è questa perturbazione di passaggio che scendeva anche di 6-7 gradi. Sì, no, ma stamani era proprio, ci voleva un po', stamattina ci voleva, tu pensa che io stamattina trovo sempre un amico che andiamo lì al bar a prendersi caffè insieme, eccetera, e questo qui è un pochino barroso per quanto riguarda il fatto del freddo, eccetera, e dove sta a fermare i gozzi. E beh, stamattina anche lui si è preso la felpa dalla macchina, se l'ha indossata perché la sentiva il freschetto, c'era quel vento gelido e ci voleva, bisogna coprirsi. Ha parlato di maestrale di tramontana, quindi non è che si butta a mano che goccia, no? Il maestrale quando è freddo è freddo, la tramontana poi la conosciamo, perciò no, io stamattina c'avevo la felpa abbastanza pesante e ti dico che stavo benissimo, non ho sudato per niente, ho lavorato molto bene. Vediamo se cambia direttamente il tempo, se ci dà ancora un po' di spiraglio, almeno fino a quando cambia l'orario, dai. No, ma io credo che domani, dopodomani e anche poi l'altro domani ancora dovrebbe essere buono, perlomeno stando quello che ho visto sul meteo nel telefonino, dovrebbero essere giornate soleggiate quasi tutta la settimana, perlomeno qui in zona, poi non lo so se fuori ci sarà sicuramente del cambiamento, però per Sassari dovrebbe essere così. Magari ci può essere freschetta come è successo stamattina, però poi all'una, mezzogiorno e mezzaluna c'era il bel sole e andava anche bene, si poteva stare anche senza il giubbotto, per cui suppongo che tutta la settimana o quasi tutta la settimana sarà così. Ehi, se rimane così già, però vabbè, se poi arriva l'acqua ce la prendiamo e cosa vuoi fare giù? Questo adesso inizia il periodo suo, l'estate è finita, adesso periodo autunnale, poi l'inverno pieno, ehi, passa brughiscio, piano piano, manco ce ne accorgiamo. c'è muia a dicembre d'ora. Manco che una cuccia arriva l'estate di nuovo. Padre Cobra, Sarreca, va copiando Galicia, Pontevedra, Pastero Francisco Javier, hola, buenas tardes. Hola, hola, hola, hola. Avanti l'amico, hola, hola, buonasera, avanti. Buonas tardes, Santiago 9, 9-5, llegate aquí, 9-5, ok, amico. Ok, contraccambio, il contraccambio segnale uguale, va bene così anche per te. Avanti Claudio per questo amico. Sì, buonas tardes Francisco, buonas tardes a chi Radio Sparviero da lei dalla Sardegna, buonas tardes. 9-5, 9-5 per te, avanti. Hola, salta miei, Santiago 9-5, lo che sto trimettendo con un bravo Victor de dos válvulas, ok? Por ahí. Noi niente valvola, niente valvola. Aquí Radio Bona, Radio Bonas, Radio Bonas, de prima categoría, come le angurie. Ok, equipillo, una Ranger, 2-9-5-0, una Ranger, y micro original y delantero una 16 radiales. Ah, bueno, bueno, bueno. ¿Y cuántos vatos tienes? Ahora está largando 400 reales, 400. Ese tagging está, es un barbulero de dos válvulas, mira, 400. El lateral es mucho más. Bueno, bueno, mucho más, 400. Está aquí bueno. Muy bien, Francisco, te paso Giulio d'Aragona, vai Giulio. Ok, sì, bueno, bueno, Francisco, molto bene, Santiago 9, Radio 5, la bomba, va benissimo. No, io ho pochi watt, sono 20 watt, niente di più, si comprano normalissimo un MC70. Non è pure così tanto normale, dai, vabbè, qualcosina di più del normale. Comunque 20 watt solamente, avanti Francisco. Ah, però tengo anche un'altra antena, io tengo una, che la conosco, è una, la Inman 2000, la vecchia. No, no, io no, no, no, no, un dipolo autocostruito in verticale, dipolo autocostruito in verticale, canna da pesca, per cui va bene così. Ok, avanti Claudio. Canna da pesca, antenna costruita, autocostruita Francisco. Sì, sì, quella è una pulita antenna, è 5 ottavi quell'antenna, 5 ottavi Francisco. Polo. Cosa hai detto di polo? Ok Francisco, ok. Ti sto perdendo Francisco, hasta la vista. Buona estrada para ti e todos QRA Francisco. Adelante, adelante. Io tengo anche un esquema para hacerlo, no? Una V, dos V. Usava l'uva. Y la giro como quiero. Lo tengo por aquí para hacerlo un esquema. Vuoi lo schema del dipolo, Francisco? Lo schema? Es un esquema, un dipolo, un dipolo. Con dos tentativas V. Anche Giulio sta usando un dipolo, un dipolo. Però la polarizzazione verticale, verticale. Ok, ok, coge Giulio. Ok Francisco, sì, sì, antenna autocostruita del tipo Game Master, autocostruito, di polo, 7 metri circa di lunghezza, montata sul terrazzo con un'altezza di 7,50 m, 8 metri dal suolo. Non è molto alta, non è molto alta, per cui va bene ugualmente per me. Avanti Francisco. Non ho capito che qua, cosa sto prendendo. Ha detto che funziona perfettamente, 9595. Bueno, bueno, Francisco. La Chida e trasmette, Francisco. Dove sei? Aspetta Francisco un attimo solamente, ci devi dire da quale città stai trasmettendo, da quale città stai trasmettendo. Avanti Francisco. Ok, Francisco, noi siamo in Sardegna, Sardegna, città di Sassari, Sardegna, nord Sardegna, Sassari, Sardegna, vai Francisco. Se le chiama mucha gente por allá, ok, a ti te doy poco a ti, No, no, liscio, comunque liscio, completamente liscio, solo apparecchiatura, microfono, radio e antenna, basta, niente altro, Va bene, ti ringrazio per questo, Francisco, ci sentiamo alle prossime. A risentirci presto, ciao, ciao, ti passo Claudio per i saluti finali. Vai Claudio. KK, ciao Francisco, 73 più cordiali, alla prossima. Sì, noi niente valvolita, niente valvolita, solo antenna e radio buona, Francisco. Ciao, a presto. Francisco, ciao, amo Gian Trenda, vai Giulio. Ok, ciao di nuovo Francisco, ciao, a risentirci, a presto. Ok, hai visto qua, anche col diplomo si può arrivare, quando c'è preparazione buona, problemi non ce ne sono, non ce ne sono, nonostante che basta, e non c'è altro, perché si può immaginare, se lo dovessi mettere questo diplomo sul posto dove c'era prima la rosa, come si chiama, la manta, la turbo, allora sarebbe veramente alla grande, sono convinto che renderebbe, quanto è la manta, la turbo, o qua. Magari se la sollevi, sì, ma noi poi con dalla Sardegna, quindi dalla punta in cui siamo, da Sassari, praticamente lui è lì, dietro le Baleari, quindi è molto visiva in giornate così, molto visiva. Io le Baleari parlo in diretta anche in VHF tranquillamente, ma a segnale pieno, quindi non l'ho più, sono più entrato, se no a volte facevo questo con Vincenzo, io Fabrizio soprattutto eravamo molto forti. Va bene, e avevamo vedato Borugo San Francisco. Là. Ok, ogni tanto ci sentiamo. No, ma già avevo già parlato quest'estate, già avevo già parlato anche con la Germania, col Portogallo, uno slovacco anche, ma che appena si facevano capire la lingua, perché il problema è quello, che a me mi frega la lingua, non capisco queste modulazioni straniere. Sì, riesco diciamo a mettere insieme le parole, magari capisco il concetto, qual è, perché magari danno dei numeri, i numeri sono universali, per cui si riesce più o meno a fare il contatto, ma niente di eccezionale, non è che ti puoi allargare troppo in questi casi qua, sono radio, antenna, microfono, basta, tutto lì, o qua. Sì, ma in spagnolo già è facile parlarci, inglese lo devi capire, parlare anche bene, se no non li vuoi bere, ma lo spagnolo già a uno già stavo parlando, ogni tanto mi usciva qualche parola in algherese e già mi capiva. KK, dice quello, KK, ehi, che ore sono, eh? Mamma mia, 7:15 già, come intende bucio, a fine mese a chi sopra il bucio presto. Sì, anche stamattina, guarda, alle 8:15 non era nemmeno così tanto luminoso, stamattina alle 8:15, ma come mai così buio? Perché io di solito mi sveglio presto la mattina, perché oggi mi sono svegliato alle 8:15, apro gli occhi e c'era ancora buio. Cazzo di fatto, ma buio. Guardo l'orologio che ho la sveglia radio qua. Ed era alle 8:15, capita. Allora mi sono alzato qui alle 8:15, 8:20, una cosa del genere. Poi c'è un po' la radio, faccio, ma vediamo se c'è qualcuno che sta parlando, con le cuffie, non c'era nessuno a 7:70. E poco fa c'era qualcuno che stava facendo questo, però c'era il suo deficiente a 7:70 che disturbava continuamente. Vabbè, pazienza, poi ho cambiato e ciccia. Perché ce l'hanno sempre con Francesco, questo Francesco è un maleducato, non viene bene a dirlo. Già stavo ascoltando anch'io, sono registrazioni che fanno, e poi soprattutto quando c'è Nicola e Tonino, che sono quelli un po' più forti, allora mandano queste registrazioni per disturbare, ma è 7:70, è una giostra e non puoi mai fare coesioni perché ti disturba. Infatti mi sono stufato e sono andato a 7:130, che c'era un coesione di proprio 2-1 di Barcellona, uno spagnolo, poi c'era un francese, stavo ascoltando a loro, così intanto parlavano anche abbastanza bene l'italiano, e poi ci fanno tutto, adesso è tutto spento, c'è solo il 4:40 acceso e la T230 basta, il resto è tutto spento, santo, non lo era bene ascoltando su, così riascoltare, boh. Quello è un grandissimo tozzone, capito? Quello se ti attacca, ti bestemmia, ti fa, non so se l'hai mai sentito la mattina, quando si attacca un caffè, mamma mia, per carità di Dio, se ne butta poco bestemmia addosso e di maledizioni, meglio lasciarlo perdere. Io già lo lascio perdere, io non è che sento, non ci posso entrare, dunque problemi non ne ho, però già sento quello che dice, per carità, è uno schifo, però stavo anche pensando, ma quasi quasi mi metto un di polo per ascoltare sui 40 metri, così ascolto anche di più, perché prima quando avevo la Matabatumo ascoltavo anche 9:20 di segnale, invece adesso con l'antenna che dove è messa, va bene che adesso è basso, ascolto massimo, ma pur esagerando 7-8 non di più, ma quando cominciano a mettere un po' di potenza loro, per cui, ma prima, abbiamo detto la verità, che nel primo periodo avevo scoperto a 6.600, no, 6.585, 6.590, una cosa del genere, che la mattina c'era QSO in 45 metri, no? Beh, ti dirò che un paio di volte ho fatto break e mi hanno sentito, però avevo la mantobatulbo, accordato naturalmente, e ho fatto qualche piccolo QSO così, sia dall'Alta Italia che la Bassa Italia, e dappertutto arrivavo 9.5, 9.10. Sì, ma sono spariti anche in 45, anche da altre parti, evidentemente non c'è più traffico. No, beh, io ho acceso il 756 della ICOM, accendo quello quando devo ricevere. Erano, Tonino era quasi 9:30, 9:25, una cosa del genere, senza amplificato dell'antenna. Francesco era intorno a 9:20 e quello che stava mettendo la registrazione era intorno a 9:25, capito? Però vabbè, c'è l'antenna adatta, 10:15, 20:40, e quindi ricevo bene, però anche se ricevo col 4:40 giusto così per ascoltare, per non accendere altre radio, già i segnali già ci sono, e YouTube ascolta Giulio, fatelo un dipolo a banda intera per i 40, lo metti a V così puntato a nord, e ricevi tutto, tanto tutta la Liscia Marmaglia, arrivi tutta da Chivimi, capito? Tutta l'Alta Italia, sono tutti in Chivimi, uno attaccato all'altro, perciò, e poi tu da lì ricevi bene anche i T9, Palermo, tutte quelle zone, Caltanissetta, Siracusa, Ragusa, Catania. sono a casa, ascolto a Massimino, che noi siamo una persona che fa vedere il romanaccio da Roma, e ascolto lì a volte sono a 7115, c'è Biagio, che sono tutti vecchietti, fanno dei bei QSO, parlano di radio, parlano di valvole, di cose, di insomma, fa piacere ascoltarle, ma a 7070 non ci vado mai, perché è un coso, proprio un mercatino, un pollaio, è un pollaio di galline che si beccano uno con l'altro e alla fine non stai ascoltando niente. Io se ascolto, mi piace ascoltare QSO Siri, QSO insomma, dove ti fanno anche capire qualcosa, ma per ascoltare i quattro marchi non ci vado mai a 7070, perché è veramente lo schifo dei 40 metri. Sì, quello sì, è vero, no, ma un tempo fa, stiamo parlando di almeno un annetto fa, ascoltavo la mattina presto, già alle 8 meno un quarto, anche prima, mettevo le cuffie e ascoltavo su quella frequenza lì, e c'era questo Massimo Romano, sì, è in gamba, è una persona educata, è veramente in gamba, è arrivo fortissimo anche, tra l'altro. Però poi è cominciato a sfocarsi, c'era sempre qualcuno che disturbava, e poi lo sentivo alle volte su 7090, avevo sentito questo Massimo, ma poi mi ero stancato, non l'avevo più sentito, poi era diventato un po' sordo, da parecchio, dunque ci avevo rinunciato, non lo stavo più ascoltando, e adesso sto riprendendo da quando è stato ripristinata la radio, e appunto è quello che stavo pensando, quasi quasi se ne ho pochi mesi di filo, metto 10 mesi da una parte, 10 mesi dall'altra, così un dipolo per i 40 metri, non se ne fanno più, ma solo per ascoltare, non devo accordare niente, non me ne affitti nulla a me, interessante che ascolti. Vediamo un po', se lo metto a invertito o se lo metto in orizzontale, non lo so, anche ad angolo, no, a quadra, diciamo, va bene lo stesso. Ehi, sono grande per ascoltare, fai la misura standard, senza accordare niente, è importante che abbia la misura standard che ti dia una ricezione ottimale, grandina tutti. No, beh, io ce l'ho steso su tutto il terrazzo a polarizzazione orizzontale, ma è una setta di pollice, me l'aveva regalato Marco Scorpio, ma è una cosa micidiale, veramente micidiale, una ricezione, poi quando entro in 40 mi sentono tutti, anche senza amplificatore, senza niente, arrivo a tutte le parti, un bel in alto, 35, quasi 40 metri d'altezza, ed è un 3-4 metri sollevato dal piano del tetto, però è lungo, è una polarizzazione orizzontale, capito? E poi c'ho anche il dipolo rotativo, che però è basso, è puntato a nord, non l'ho mai sollevato perché non mi interessa, infatti sto aspettando che Massimiliano Bulldozer, se si ascolta la mazzetta dell'aria, venga a darmi una mano per abbassare tutto e staccare le cose che non mi servono, lasciare solo un'antenna dove posso ascoltare qualcosa, così salutare ogni tanto qualche amico e basta, adesso non trovo più tu Giulio, perché no, è inutile tenerla lì e non usarla, ogni giorno lo fa girare sto rotore a destra, a sinistra, per non inchiodarsi, alla fine di luogo e ciccia cosa ne va. Ah beh certo, averle così e non usarle, per rovinarsi con le intemperie, col tempo eccetera, perché si sa con gli anni si rovinano le antenne, siccome valgono un sacco di soldi, costano un sacco di soldi, e invece togliere, poi domani quando decidi di nuovo li puoi rimettere, per cui va bene così. Stavo dicendo, quel dipolo che tu hai orizzontale, però ce l'hai magari piegato ad angolo, fatto ad angolo, a squadra, perché se no 40 metri non vengono. 20 metri volevo dire, non 40 metri, 20 metri, 10 per lato, 10 per ogni braccio. Come ce l'hai ad angolo? Oh, ho 27, quasi 28 metri sono il piano lungo del terrazzo, lungo. C'ho un palo da una parte, 4 metri, e un palo dall'altra parte, 4 metri, ed è lungo, rientra appena appena, ma 10-15 gradi proprio di angolatura centrale, perché poi è talmente pesante, perché quando l'ha fatto Marco ha usato cavo grosso, perché lui usa gli amplificatori, capite? E non ne ha di attacco di niente, è occhielli diretti bullonato, capite? Non usa, lui li fa tutti così, molto bello, molto, il capo è molto grosso ed è molto pesante, quindi al centro ho dovuto fare un piantone centrale al centro del tetto per tirarlo su centrale, altrimenti pendeva per terra, capito? Quindi ha un palo a una parte, un palo all'altra e uno centrale. Ok, sì, ho capito, sì, beh, certo. Sì, beh, no, io non ce l'ho tutta quella lunghezza e dunque non lo posso mettere. Sì, lo metto dove metto all'angolo, lo metto, faccio la squadra, lo faccio, che funziona lo stesso, mi non è che non funziona. Quindi perché non lo voglio mettere nemmeno molto alto, cosa me ne frega? Non attacco al palo della televisione e poi lo levo al palo dell'antenna. E poi usufruisco dall'altro palo dove c'è la prima la manda battuta e faccio un angolo, faccio tre pari sempre, però faccio ad angolo perché se no non c'è lo spazio. E cosa capita? Tu vabbè, hai lo spazio molto lungo, ma io no, per cui va bene così. Se non so cos'è da metterlo a invertita, ma anche lì allora ci vuole un palo molto lungo. No, assolutamente. Già lo metto così, in basso, non me ne vuole. Non devo fare troppo lavoro qua, poi se sento bene, se ho pazienza, anche mi si smetto tutto per ascoltare, rimetto la macchina battuto, magari senza i radiali, con i fili, con le cose, come si chiama, con i contropesi, si costruisco i contropesi, così anziché esserci i radiali suoi originali, ci sono i contropesi, ci sono fido, quelli non succhiano, non fischiano quando succhia il vento, capito? Sì, ma infatti fai la modifica su quella verticale che hai, la verticale che ho è 10, 15, 20, 40, capito? Però è una verticale, insomma, ti devi accontentare. No, lo faccio io, è piazzato per farti sentire. Tiene più di 3 kW con il fuoco, figurati. Molto, molto forte, fatto molto bene, sono un sacco di anni e mi pare due anni fa avevo fatto la manutenzione, praticamente tolti i bulloni vecchi degli anelli, messi in acciaio inossidabile, ripuliti bene gli anelli, ho messo tutto il grasso sopra, era un bel di poco, funziona molto bene, poi i ripuli così più alti sono, hanno una grossa apertura e se vede bene il mio è favoloso, dicevo molto bene, anche segnali bassi, no, non ho problemi. Infatti lascerò solo quello e basta, il resto ne vuoi tutto, cioè, no, fitta 6. C'è anche la monobanda per i 10, figurati, che è già da un paio di anni che ho inchiodato l'altro rotore, quello piccolino, infatti è puntata sempre a nord, anche quella ne la tolgo, cioè direttive V e U lo stesso ne la tolgo, cosa ne vai? Tutto è stato abbandonato, la direttiva grande, le direttive grandi, quella dei 6 metri e quella da 3 elementi, 10, 15, 20 del recupero, il motore, il rotore, tutto il lavoro che ha fatto Fabrizio, quello lo tolgo perché è un peccato, sono più di 2000 euro sopra il tetto, stai scherzando, lo tolgo, le ripulisco bene, le metto dentro la scatola e la conservo, tanto è inutile lasciarle lì a fare gassi, a fagosa. Vabbè, non di poco, giusto così per divertirsi come facevo prima, per divertirsi, per ascoltare e basta. Sì, beh certo, infatti appunto quello che stavo dicendo, se non lo usi, lasciarlo operare così con tempo, finché uno le rovina, ma perché le stai anche usando, va anche bene, perché non è che si rovinano perché si hanno usato, si rovinano perché le intemperie, eccetera, quello. Ma finché uno li usa, vabbè, le lascio, pazienza se si rovinano col passare degli anni, ma se non li stai usando proprio, staccano e te li conservi. Poi quando decidi, prendete le piatti e cazzi, stanno alla fine del mondo, per dire no. Sì, no, io farò così, io lo metterò che no a un metro e mezzo, due metri dal tetto in altezza, perché lo so, vorrebbero molto più in alto, vorrebbero almeno 4 metri, 6-5 è meglio, ma non ho io queste pretese, poi io non devo trasmettere, uso filo sottile mio, anche perché ce l'ho da 1,5, non è che mi metto lì a comprare il filo per fare il forno, uso quello che c'è, che ho, per cosa me la puzza, infatti io non devo trasmettere, per cui devo solo ascoltare, e per ascoltare va più che bene qua. Sì, ma infatti sono d'accordissimo con te, per ascoltare hai un guadagno superiore, ascolti meglio, ricevi meglio, è tutto, capito? No, perché non serve per trasmettere, quindi te lo fa. No, io qua non posso farlo da solo, ma non per l'altezza, perché non temo niente. Il problema è che è troppo grande l'antenna, c'è 6 metri di boom, il braccio, l'elemento più corto è quasi 10 metri, cioè l'elemento più lungo è quasi 10 metri, come fare? Rischi di fare danno, si rompono le bobine, è un casino, ci vuole almeno 3 persone ci vuole per poterla riabbassare tutto, smontare, ma anche per abbassare, io una volta ce l'ho all'altezza d'uomo, piano piano me la smonto, mi segno col pennarello indelebile le misure in modo che se mi capita di ripiazzarla già non perdi tempo, capito? E la riconservo, perché è un peccato. Costa 800 euro quell'antenna, 800 euro, che poi mi ha fatto lo sconto perché appunto aveva telefonato Marco, però poi c'è l'altra, poi c'è il rotore, poi ci sono i capi, c'è il montatore dell'elettronico, c'è un sacco di lavoro. No, la 5 elementi, quella per i 6 metri, cioè, non è grande, ma comunque non è neanche piccola, anche lì mi pare siano 4 metri e quasi 5 metri di boom, però i radiali sono più piccoli, quindi viene meglio lavorarla, capito? Ma la 3 elementi è un bastione, materiale ottimo, ma l'ho fatta comprare Marco, PKW, sono antenne che c'è anche Walter, gente che siamo preparata, mi avevano consigliato loro di fare così e così ho fatto. Materiale buono, ottimo, che dura tantissimo, costruita molto bene. E proprio per quello la voglio togliere e mettere da parte, perché però sono della giura, ci vediamo, quest'anno è stato impegnato e sta facendo lavori a casa. E quindi è stato impegnato nel periodo estivo, sono anche anch'io a volte a darle un colpo di mano, adesso vediamo se si libera un po', un sabato mattina, una domenica mattina viene, Gianna Braffietto, io non posso mollarlo da solo il sistema, Giulio, perché se si abbassa il colpo mi disegga rimani, grubeggio, e poi rischio di rompere la gabbia del motore, rischio di fare danno, quindi ci vuole gente, sicurezza, piano piano, capite? Già lo faccio, piano piano già lo faccio, faccio un po' di pulizia su, lascio l'antenna nella 27 e la bibanda qua, basta, non lascio altro, il resto lo conservo tutto. Sì, ma è così, no, non rischiare da solo, non fare niente, ma che tanto, sai, senti, ci mancherebbe altro, un onore che può farti male, no, non ci provare nemmeno, anzi che non te ne venga nemmeno in mente di farlo da solo, per carità, ci vogliono persone, che siano anche persone robuste, che abbiano anche una certa forza, giovani soprattutto, così hanno tutto il vigore fisico e possono dare una mano come si deve. Credo, no? Certo qua, no, togliere, perché è un peccato, ragazzi, sta costando un sacco di soldi e sarebbe veramente stato meglio farle rovinare così senza utilizzarle, ragazzi. Finché uno mi utilizza, pazienza, è passato il tempo, però mi sono divertito, vi ho usate, per tanto tempo e va anche bene, perché ce li hai e li usi. Ma se non li usi, che te lo fa fare a fare un lavorare così senza averlo mai usato? Cavalieri subito, te li conservi bene, e come hai fatto tutti gli segni, tutti i punti cruciali dove vanno fermati i tubi, eccetera. E dunque, poi quando devi rimontarlo, sai tutto dove, come devi fare, e ritornano come prima, come adesso, ecco, è così che devi fare. Sì, io intanto non ti rispetto da solo, non posso farlo. No, beh, quando avevamo tirato su era venuto Luca con Tino, avevamo tirato su loro, capito? Anzi, abbassarla è più facile, però ci vuole una manovra particolare per non rompere le bobine radiali, perché quando abbasso devo girarla leggermente, quindi bisogna abbassare piano piano, girarla leggermente, farla passare in mezzo dove ci sono le fumaiole, diciamo, capito? E lasciarla anche così, basta, io ce l'ho bassa, piano piano me la smonto, non è un problema. Sarà un problema tirar giù il master, perché è abbastanza pesante, che quello me l'aveva fatto Fabrizio, però già si tira giù quello, non c'è ne problema. Tirato giù quello, stacco la verticale WU e la metto dove era prima, giusto per ascoltare, perché lì non sto più entrato, capito? Giusto per ascoltare, basta, mi lascio quella di polo è un bel lavoro. Sono giornate di lavoro, non abbiamo montato la grande, quella di cimenti l'ha montata Fabrizio laggiù, ma quando abbiamo montato la grande eravamo in quattro, perché è un bel pesante a montarla così a quell'altezza, non è facile, perché abbiamo assemblata a terra e poi tirata su e piazzata, capito? Quindi bisogna recuperarla più in fretta possibile, in modo che non si rovini. Ogni giorno facciamo girare a destra e a sinistra, a volte quando ascolto i 20 metri ascolto in direttiva, però l'uso è poco e quindi non conviene lasciare tutto il tuo balavà sopra il tetto. Va bene, non si intende nessuno, tutto tace. Marco, sparito di nuovo in catalessi. Marco, non sei più fatto sentire, evidentemente non è a voglia, non lo so, speriamo che sia bene piuttosto, perché quello so, mi dispiacerebbe che magari avesse qualche problema di salute, eccetera, ma non credo che non stia entrando per quel motivo lì, non credo, forse non sta entrando perché magari non è a voglia, eccetera. Sappiamo come lui, le idee che aveva e le sta mettendo in atto. È così, ma tu lo sai che io non ho mai fatto esame per dare amatore, proprio per il fatto che se io mi prendo la patente ho pensato sempre mi tocca riempire il tetto di antenne, magari me lo vado in mano, ho pensato non ne voglio sapere per nessuna ragione, mi tengo solamente la 27 e basta, però l'avrei anche fatto, non adesso, ma ormai lo comincio, quando ero più giovane l'avrei potuto fare tranquillamente, ma ti ho sempre pensato, non mi piace vedere il tetto tutto pieno di tutte queste antenne, anche per mille motivi, non solamente per la questione della figura, della visuale, eccetera, ma soprattutto quando tu hai tutte queste cose sopra, in caso di maltempo, eccetera, io la verità, sinceramente, devo essere sincero, ho una certa paura e ci penso sempre, speriamo che non succeda mai niente, comunque, qua. C'è anche quel problema, capito? Io sono fortunato perché ho un tradicio a 40 metri che è il palazzo, quindi a me non me ne frega niente di poter mettere, io ho le antenne veramente montate bene in sicurezza, perché sono staffate a muro, non ho bisogno di traliccio, capito? Un telescopico molto robusto, chiaramente ci vogliono buoni tiranti, io ho tre bike con sotto e poi ho le fasce fasce di nylon a cricchetto, le ho messe 2 anni fa, perché proprio non mi fido di mettere altre cose, e quindi ho messo quelle, e ogni tanto salgo su e le do una regolata, perché col vento stesso è un po' tendono a calare, hai capito? Perché è molto molto forte il vento, quando siamo a testa girante, immaginate chi c'ha tralicci, altri non dormi assolutamente, non dormi. L'altro giorno invece c'era l'imbeccio fortissimo, cioè c'era la verticale che era impazzita, c'era, secondo me era oltre 45 gradi si piegava. Le direttive devono avere un buon cuscinetto che ci spinta, un buon rotore, un buon impianto soprattutto di sostegno, una buona gabbia, un buon tutto, perché altrimenti ti ingaggi tutto in terra, spezzi tutto. Infatti si muoveva a destra e a sinistra, ma c'ha talmente forza quel rotore della Yaesu, e ci abbiamo quasi tutti quelli, che è molto buono. Poi c'è un cuscinetto di spinta che poco l'impianto l'ha fatto Fabrizio, era di Fabrizio, l'ho comprato da lui quando lui ha messo quello nuovo, capito? Guardate, a me è un sistema ottimo, la gabbia in acciaio ossidabile, fatta da lui, meglio di quella che compri. Il sistema del cuscinetto di spinta è tutto fatto da lui, quindi ho una certezza matematica che l'impianto è fatto a regola bassa, senza ombra di dubbio, ho capito, è un cuscinetto omicidiale. Se non hai quello, che è il cuscinetto di spinta, l'impianto è fatto bene, quando il vento spinge, che l'antenna si muove a destra e a sinistra, spacchi tutto. Quindi su quello non mi posso lamentare, però come dici tu chiaramente non dromi, pensi sempre ma, capito? E io sono in sicurezza, io sono a 6 metri, mi cosa pensi che sia? Perché avendo un palazzo così alto, sono 6 metri dal piano del tetto, non ho grossi problemi, ma chi da piano terra in altezza è 20-25 metri, cosa devi fare? Certo che non è una cosa tanto semplice. Lo so, il lavoro è fatto bene, indubbiamente, questo sì, magari non ci saranno mai problemi, questo sicuramente così, perché quando il lavoro è fatto a regola d'arte, problemi non ce ne avrebbero. Tu pensa che io avevo nello stesso tubo, alla base del tubo, quando c'era la mantova a tubo, avevo nello stesso tubo, nello stesso palo, e avevo piazzato la parabola del satellitare, no? Lo sai che col tempo, nonostante che i bulloni li avevo stretti forte, ma forte veramente, perché il tubo non mi girava, quando soffiava il vento a forza di vibrare mi girava l'orientamento della parabola, mi girava, cioè girava tutto il palo, girava praticamente. Allora alla fine mi sono stancato e ne ho tolta, perché era una parabola da 1 metro di diametro e ne ho una solamente da perché prima ne avevo 2, adesso ne ho una da 80 cm di diametro, ma quella è nel palo della televisione, è diverso, perché non ho visto che non si muove, mentre l'altro vertice forse perché era troppo in alto, che ne so, quando soffiava il vento si vibrava, suonava, e a un certo punto arrivava il giorno che non vedevo più il satellite. Perché? Perché mi si girava il palo e dunque portava fuori orientamento la parabola. E allora dovevo salire di nuovo per rimetterla in quella posizione con lo fluentino che ho, eccetera, e cercare di nuovo il satellite nella maniera migliore. Capito qua? Così che vedi bene, anche se tu stringi, però il vento è maledetto, non è uno scherzo, perché a forza di vibrare, i bulloni, essendo tondi questi pali, infatti avevo pensato quasi mi metto un palo quadrato, così almeno non dovrebbe girare più, però essendo tondo il palo girava, la parabola si girava. Sì, il vento non ci metteva a fare, e meno me l'ha fatto il primo periodo, non capivo, ma come mai si gira, siccome le antenne, soprattutto le direttive, vanno puntate a 9 per prendere su. Ho visto che praticamente i perni che mantengono il piantone della gabbia del rotore erano stretti, erano stretti e li abbiamo stretti più proprio in Massimiliano con la scala appoggiata al tubo. È salito, che ha stretto tutto, non l'ha più fatto. Un giorno c'era un maestrale forte, lo stesso, si è girata leggermente da nord verso nord-ovest, leggermente, 25-30 gradi, aiuto, ma qualcosa c'è che non è fissato bene. Alla fine mi sono stufato e andiamo a Civigliano e abbiamo fatto il perno passante proprio nel piantone che mantiene la gabbia con una barra filettata in acciaio inossidabile stretta da una parte all'altra, quindi bucato, piantone, tubo, tutto passante. Non l'ho più fatto, era quello il problema, capito? Per dirti che il vento quando è forte, nonostante i perni siano stretti, la spostava lo stesso, e non l'ho più fatto. Una modifica che forse è un po' trascurato anche Fabrizio, quindi ci voleva proprio il perno passante per far sì che avesse più resistenza, non si spostasse, capito? Il lavoro è fatto a regola d'arte, anche i tirafondi, le piastre, ha fatto tutto lui, messi le barre filettate a 14, fatto bene, a muro, a tassello chimico, nonostante sia cemento armato, però va in tutto rinforzato, e i radiali sono a posto, cioè i crati sono a posto, tutto a posto, va bene. Però ti ripeto, l'altezza è un'altezza equa, un'altezza dove non è che fai molto danno, capito? Perché i tubi sono buoni, i tubi sono grossi, il massimo mio è un tubo innocente da 4 metri, quindi non si buffoneggia, non si scherza, non lo piegherà mai, nonostante ci sia il peso delle antenne, ma non lo piegherà mai. Però ti ripeto, è un lavoro fatto in altura, sì, però con quelle caratteristiche diverse, ma che altro alice che parte da terra è molto molto pericoloso nel senso che i lavori sono fatti bene, per carità, io li ho visti fare, sono fatti benissimo, però stai sempre sul chi va là, capito? Va bene. Sì, beh certo, però io lo stesso avevo fatto poi dalla staffa, no? Siccome la staffa mia è a doppia staffa praticamente, è una cosa lunga, ed è fissata nel quanto è lungo il blocchetto, quanto è profondo, il blocchetto era dentro, perché l'avevo fatto quella staffa lì quando stavo costruendo la casa, e quella di sotto, e quella di sopra invece addirittura affogata dentro il calcestruzzo quando è gettato il tetto o tutta assieme nel condolo, sicché ti puoi immaginare forte, però in quella staffa di sotto avevo fatto così come stai dicendo tu, ho preso il trapano, ho bucato col trapano staffa e tubo tutto insieme, e mi è bastato mettere una punta da 5 mm di quelle punte da ferro stesso, no? Per quando era dentro, a dire la verità, mi si è spezzata e gli è rimasta dentro, boh, non si è più girato il tubo, mai più, e per cui va benissimo così, qua. Però poi la parabola me l'avevo tolta, perché intanto non mi interessava più, perché non è che la usavo io quella parabola, la usava mia moglie, perché io ne ho una parabola per la zona notte, una parabola per la zona giorno, ne ho, capito? Ecco qual è il discorso, per quel motivo per cui ho due parabole. E sicché quella che c'era per la zona notte, e c'era anche il motore che girava, ed era una parabola pesante da un metro di diametro, si può immaginare. Tu pensa che quella parabola di sé che me l'aveva regalata, ma tra Franco Delta, Franco si chiama, no? Sì, Franco, Franco Delta, sì, il Delta V, il ricordo, il tecnico del computer, allora Franco, così si chiama, non lo ricordo più. Sì, sì, Franco Delta 1, sì, sì, sì, sì. No, noi ce l'abbiamo centralizzata, la parabola di Sky, l'ha fatto l'impianto Paolotto tanti anni fa, ha fatto la parabola. Qualche giorno le do una verniciatina, perché è tutto rugginosa, si vede anche dalla strada, quella centralizzata. Ci abbiamo tutti il collegamento agli appartamenti, l'ho fatto Paolo. Infatti io sono collegato lì, capito? Vedo di tutto e di più. Non riesce a vedere il DAZN, però qualche partita già la sto guardando nel programma svizzero. Quello inglese e quello tedesco danno le partite Serie A tutte in diretta, in chiaro, però fa vedere in lingua straniera, ce n'ha tutti, l'importante è vedere la partita. Sì, in effetti è interessante vedere la partita. Sì, sul programma svizzero, anche sul tablet c'è. Sì, lo so, ho qua. E vabbè, ma io per quello non preoccupo più di tanto. Non preoccupo più di tanto. A pochi centinaia di metri così, sapete, da mio fratello, vado lì e ce la guardiamo insieme. Lui un pochino di me, si può immaginare. Adesso domani sicuramente facciamo così lo stesso. Se mangiamo una pizza, se mangiamo, se non se ne fanno più. Ho una bistecca ai fermi. Dunque, tanto anche lui abita qui a di fuori, dalle parti di cose, infatti, di fronte a parte, abita di fronte, anche a spalle della casa di Walter. Abita, andiamo lì e la guardiamo la partita, proprio le ne so. Sì, ma è così, non era possibile. Fare un abbonamento non era possibile, magari me lo mandiamo, anzi mi sono pentito che l'ho fatto anche da prima, perché essendo il mio fratello anche vicino, infatti gli avevo detto, la prossima volta lo pago io, ma così, tu non paghi più niente, mi ha detto, tu vieni qua, ci facciamo una cena o un pranzo, se è una partita di giorno, e ciccia, ci guardiamo anche la partita, le donne, prendiamoci e ci ributtiamo nell'altra stanza, tutte quante, e noi rimaniamo soli e soletti e facciamo tifo e ci guardiamo la partita senza pace. Capito, cara? Questa è l'idea del mio fratello. Sì, non è idea mala, tanto per stare da solo, andate a casa, no, io venerdì, sabato e domenica, avanti in campagna. Infatti la partita l'ho guardata lì, quella della Juve, l'ho guardato del derby, un culo sfrenato quest'Inter, scusando il termine, ma proprio una cosa allucinante. Segna ad esempio al 90esimo, capite? Al 90esimo, al 93esimo, al 93esimo, perché ha dato un sacco di recupero. Partita bella, giocata proprio sul piano agonistico, molto molto bella, mi è piaciuta, però è una sfiga totale, partita da 0-0, era un bel pareggio per tutte e due, i Seccardi, ogni volta lo molla nera azzurra, ma come si fa? Il Seccardi è micidiale, se lo molli è pericolosissimo. Perché invece Higuaín invece ieri non era molto molto in palla, e vabbè, pazienza, dai. Sì, io avrei preferito che vincesse il Milan, è la verità, invece ha vinto, o perlomeno che facesse un pareggio e così avremmo guadagnato su tutti e due. Solo che non ho potuto sopportare che la Juve ha regalato due punti sia a Genoa che a Napoli. Non posso sopportare su Bonucci già tre volte ha sbagliato e tre gol subiti, ragazzi, capo. Speriamo che non succeda più, speriamo bene, soprattutto domani. Sai che c'è Emre Can che ha un problema alla gola, ha un nodulo alla gola e sta facendo degli esami, speriamo, poveraccio, che non sia niente di grave, perché sennò sarebbe un peccato. Primo perché l'uomo è giovane e secondo perché è un gran giocatore della Juve. ho capito, ma io non ero colpa voluce, io stavo aspettando che tirassero il calcio all'angolo, cioè come ti sei fatti? Lì si sono fermati tutti, Giulio, se hai visto, si è messa, sessa, come ti chiama, l'ho visto di là, di Eugenio, era solo, cosa ti puoi aspettare? Stavamo aspettando che tirasse il calcio all'angolo, se hai tutti i posizionamenti, e invece la palla perché poi l'ho fatta vedere, praticamente quando si è sollevata è andata a metà della linea, quindi non è uscita, e poi è rientrata dentro e gli do la crossata. È chiaro, se in aria sei da solo, cosa vuoi fare? Lì il difensore, sì, hai visto che ha reagito, ma ha reagito quando lui doveva viaggiare la palla in altro gabbo, nessuno si aspettava che crossasse, erano tutti remmi, quindi vabbè, pazienza, un pareggio, erano sicuramente, ma io non ho visto una grande Juve, lascia perdere i guai che hanno toccato palla, non ha fatto un tiro in porta, mi aspettavo una grande partita da lui, una grande partita, perché doveva attaccare molto e doveva essere quello dove i risultati dovevano arrivare, invece non è arrivato proprio niente, perché non ha toccato palla, ha fatto un tiro in porta e sporcato pure, tenendo conto che il Milan palla a lui non gliene dà a segnare, non gliene dà, se capita sì, hai capito, con Buonaventura se palla al piede in aria non la dà a Edo a segnare, segna Edo, capito, Suso, Lascio, Longinio, come ti chiama, tira Nenduti, Uscia, Fruffè, non è quando giocava, poi diciamo la tutta, Higuain non è più il giocatore che aveva il Napoli, perché da quando è andato via con Napoli anche con la Juve non è che è stato un grandissimo cannoniere, ok, adesso è ancora peggio, quindi non ho fatto più nulla, assolutamente, quella è una cosa, il resto è da vedere, insomma, chi quest'anno può essere all'altezza di fare il terzo posto. L'Inter, con tutto, io sono antinterista, secondo me c'è perché sta giocando molto meglio, poi per il resto si vedrà, ma Allegri, voglio vedere cosa fate domani, cioè a me centrocampo contro Genoa non mi è piaciuto, te lo dico francamente, non lo so, tu mi dirai, io a Chedira non lo posso vedere, però io con Chedira e Piani ci sono più tranquillo a centrocampo, a me che so Bentancur e che Dato, poco mi piace, e se sei stato attento che hai visto la partita, da Grascotta è morto, Caput non riesce a camminare, non riesce a slanciare come faceva prima, quindi è meglio che lo lasci in panchina che metta a Quadrado, capito? Va bene, sì, ma un'altra cosa bisogna considerare, che era un mese senza giocare, dunque non so quanto è allenato, per cui sì, sicuramente si è allenato, però era fortunato, non è che si poteva allenare tutto il tempo che è stato fermo, assolutamente no, si riprenderà, speriamo che si riprenda presto, anzi. Lo so, ma io ho visto una Juve che spinge molto sulle parti, e questo sì, perché sia Alessandro che Cancelo hanno spinto molto sulle parti, però sai cosa succede? Succede che si indebolisce la difesa, e cioè i due centrali, Bonucci e Benatia, non erano proprio in grande forma, la verità, io ho premesso che Bonucci è un gran giocatore, questo lo sappiamo, però io nel momento del gol subito, per me c'è stata una piccola dormitina, c'è stata soprattutto da parte di Bonucci. Cancelo, vabbè, doveva mancare meglio, perché Cancelo non è nemmeno piccolino in altezza, per cui Bessa è riuscito a colpire lui di testa, e quello è, vediamo, io penso che dovrebbe cercare di prendere due difensori migliori la Juve, magari a gennaio se è possibile, ci vuole. A proposito, le voci circolano e forse Marcelo tutto a gennaio arriva la Juve, le voci stanno circolando, speriamo che sia vero. Te l'ho letto su un sito molto molto riservato, nel senso che non c'era titolo di notizia da nessuna parte. E appunto Marcelo vuole venire alla Juve a giocare perché c'è Ronaldo, sono troppo amici e lui sta perdendo anche colpi per quello, cioè non è più Real Madrid di prima, perché a lui le manca molto Ronaldo e la punta per lui era quella, Edo lanciava e Ronaldo segnava, non andava, non c'è niente da fare. Sì, però Bonucci con Benatia non si trova, andava un po' meglio con Chiellini all'inizio, capito? Poi si diceva che con l'ingresso di Caldara il tridente difensivo era quello, invece è andato via Caldara, è chiaro che però io Bonucci con Benatia non ce lo vedo, lui contro il Genoa doveva non farlo riposare a Chiellini, perché anche Bonucci lo era stanco, ha giocato in nazionale, cosa c'entra? Magari le facevi fare il secondo tempo a Chiellini, perché nel primo tempo ha giocato molto meglio, nel secondo tempo si sono, come fanno sempre, si rilassano troppo e lo prende il gol, perché il Genoa non è una squadretta, l'ha detto anche Allegri, stiamo attenti al Genoa perché non è una squadra da sottovalutare, e ti buona fare un turnover, mi buona bene a te in difesa anziché Chiellini con Bonucci, ma è buccio a Matuidi, vera Gojo al centrocampo con Pjanić, c'era Bentancur, che quel ragazzo sarà giovane, sarà quello che vuoi, però io non lo vedo ancora pronto a giocare al fianco di Pjanić. Al fianco di Pjanić si è inserito molto bene Magalciano, per me, poi da visore io vedo questi particolari, mentre sta lavorando molto bene sulla fascia Alessandro, sta lavorando quando gioca bene, sta lavorando, lavora molto bene Douglas Costa, ma ieri proprio cadavere, ha fatto due scatti, ma tre volte ne ha pigliato la palla del piede, non gliela prendi così facilmente Douglas Costa, quindi io avrei lasciato Quadrado sino alla fine per me, però lui decide così. Il Manchester è forte, io l'ho visto contro il Chelsea, è fortissimo, c'è Pogba che è scatenato, ha un centrocampo e le due punte che sono da favola. Sì, per certo, Pogba in questo periodo dopo il mondiale è diventato fortissimo, era già forte nel mondiale e adesso è ancora più forte, ma speriamo che questo gioco non sia la palla. Così almeno dà una mano alla Juve, perché anche lui può venire, anzi, questo oggi ho letto che Allegri ha detto che è solo questione del tempo per Pogba che ritorna alla Juve, ma speriamo bene. Sì, lo so, ci ha messo una dura scossa e gli ha tolto a Mario, qui ce l'ha tolto. Io sinceramente non capisco perché non fa giocare un pochino più continuo Bernardeschi è forte. E poi io cercherei anche di inserire Rugani in difesa. Rugani, se lo fai giocare, è forte. Io penso che sia addirittura meglio di Benatia, ma comunque non vedo a lui cosa deve fare, cosa mi dica, non lo so. Bernardeschi ha delle idee, sinceramente, nonostante tutti lo criticano, però lui ha il vantaggio che vince, ecco, perché vince, perché è giovane, indubbiamente. Speriamo bene, cosa volete dire, che sia solo un momento che è stato così, abbiamo fatto delle partite di seguito, compreso quel di Cempio, senza mai fermarsi un attimo, aveva fatto tutti i punti. Però ieri non doveva lasciare i due, cioè ieri a partire non doveva lasciare i due punti al Genoa, e non tanto al Genoa, non me ne frega niente del Genoa, al Napoli, ecco, l'ha lasciato al Napoli, perché intanto si sapeva che il Napoli avrebbe vinto con l'Udinese, infatti ha stravinto, non vinto, ha stravinto. Guarda il fatto che Sciuga ha giocato al posto di Insigne, Sciuga, stesso gol che fa Insigne ha fatto, ha spostato sul letto, ha fatto una pizza all'incrocio del pane, ma comincia. Bella partita l'ha fatto Udinese, bella. Tra l'altro l'ho vista su quel programma, perché era su DAZN, l'ho vista sul programma Rosizio. Bella partita, bel gioco, bella veramente. Bella, c'è uno squadrone, ce lo tiene, c'è uno squadrone, e bisogna tenersela lontano, quindi come dici tu, non era il caso di farla avvicinare. Eravamo a meno 6 e dovevamo rimanere a meno 6, capito? Perché adesso c'è la Champions, e quindi sai, la fatica è maggiore. Adesso nella Juve iniziano le squadre più forti, quindi capito, bisogna stare attenti, perché se Napoli si avvicina nuovamente ai 3 punti o addirittura fa una parità di punteggio, è molto difficile tenerla lontano, bisogna tenerla lontano sempre, perché non, altrimenti le frega il campionato, te lo frega, perché Ancelotti c'è un altro tipo di gioco, un altro tipo di programmazione, soprattutto con i giocatori. Vabbè, vediamo, adesso domani intanto gioca, mi pare anche il Napoli gioca domani, Juventus e Napoli giocano tutti e due. Sì, dovrebbe giocare anche il Napoli, e forse anche la Roma, non lo so. E a proposito di Roma, la prossima partita è con Napoli, speriamo che la Roma sia arrabbiata per il campionato, per la scusa che ha preso dalla SPAL, che si sta prendendo in casa la Roma con la SPAL. Va bene che la SPAL è una squadra sorta, è forte, non c'è da fidarsi tanto, per cui, ma io penso che sia stato un momento così di mandamento che ha avuto la Roma, se no dovrebbe essere più forte della SPAL. E speriamo che si riprenda bene per la prossima partita, che gioca a Napoli, Roma-Napoli, cioè Napoli-Roma, mentre la Juve gioca con l'Empoli e dovrebbe farcela. Vediamo un po' che cosa succederà alla prossima partita di campionato. Intanto speriamo bene per domani, dai. Sì, quello sì, è vero, tutti lo dicono, la Juve è fortissima, la Juve è favorita, però le partite bisogna vincere, non è così, a parole è facile, però bisogna vincere. Speriamo che domani vinca, anche perché il Manchester vuole andare avanti e rimanendo prima, prima nel girone, e anche la Juve vuole rimanere prima, però staremo a vedere cosa succede, speriamo bene, dai. Però l'ho vista col Chelsea, bisogna stare molto attenti. Ma è Juventus Empoli o Empoli Juventus? Empoli Juventus. Ma l'hai visto Empoli, sì, forse non l'hai visto tu. Stava perdendo 2-0 e ha pareggiato 3-3 fuori casa l'Empoli, attenzione. Lo so, quello sì, però sulla carta dovrebbe essere più forte la Juve, lo sappiamo, e quando mai, non credo che la Juve sia così tanto deficiente da farsi prendere punti dal Empoli anche, lo speriamo di no. Vabbè, lo so, oggi le squadre così di bassa classifica, per così dire, o media classifica, quando giocano contro la Juve sono tutte aggressivissime, danno l'anima, danno, grazie. Dunque, sicuramente non sarà una partita tanto facile, però la Juve, se gioca la Juve, ha tutte le carte in regola per vincere, e dovrebbe vincere anche bene, speriamo, cosa vorresti dire qua? Ma lì non deve pensare di giocare in una quadretta, mentre invece di giocare con un Parma, hai visto il Parma? O col Frosinone, o quando c'era il Benevento, cioè non è così, perché come dici tu giustamente, le squadrette piccole, guarda la SPAL, cioè la SPAL alla Roma l'ha fatto il Gabaccacco, perché danno il massimo, si chiudono, era riccio, non riusciva a tirare Dzeko, in devo andare, cioè non sono riusciti a tirare un tiro, non sono riusciti a giocare bene, come, perché il gioco a Roma è molto bello, a me piace, è molto bello, molto molto lungo, hanno un bel gioco, indubbiamente, però quando, come dici tu, giochi con una squadra del genere, qualsiasi squadretta arrivata alla Serie B, anche se arrivati di tutti dalla Serie B, danno il cuore, perché mi ricordo la fatica che ha fatto la Juventus contro il Frosinone, allucinante, contro il Parma, adesso l'Empoli, vediamo l'Empoli, perché attenzione che l'Empoli non è una squadretta, non è una squadretta, c'ha dei bravissimi giocatori che hanno dato veramente il cuore. E vincendo 2-0, è riuscito a pareggiare 2-2, poi è andata nuovamente sotto 3-2, ha pareggiato nuovamente, è finita 3-3. Ho guardato uno spezzone, grande squadra, cioè, qui bisogna stare attenti. La Juve non deve permettersi il lusso in casa di giocare a quei livelli, sia in casa, il pubblico ti vuole grintosa, ma per il primo e per il secondo tempo. Non è che fai un primo tempo allucinante, c'era un possesso di palla da paura, e poi al secondo tempo, perché stai vincendo 1-0, dici a rilassarti. Non funziona così, Allegri l'ha detto, anch'io non mi sarei mai aspettato quel cross così, aspettavo il calcio piazzato, e invece ha crossato, è chiaro che se il difensore è a farfalle, la palla va dentro, ma nessuno si aspettava. Io la gente ha detto, ma a Udine non lo dire, poi gli ho visto questo lancio, boom, a rasura, e la rasura, se tu guardi la foto è da solo, non c'è difesa, è come che gli ha dato la palla, te buttala dentro. E lì l'arbitro deve vedere, deve valutare, perché non ho fatto vedere, la palla era mezzo fuori e mezzo dentro al primo rimbalzo, al secondo rimbalzo è rientrata in campo. Ma cioè, se c'è il VAR controlla, no? Controlla se è da tirare il rigore, fermare l'azione e la fermi, se il gol è valido, è valido. Invece non ha controllato nulla. Lo so, purtroppo è cosa vuoi dire, è così. Sì, no, io condanno questo atteggiamento della Juve che una volta che ha fatto gol subito si rilassa un pochino. No, è così, no, che devi giocare. Devi giocare sempre in attacco, perché hai le possibilità per raddoppiare e anche per triplicare addirittura. Ma se tu ti rilassi così come ha fatto ieri la Juve, anche le squadrette, ti possono fare un gol, poi non si sa mai, in un'azione in aria, un tocco di mano ti danno un rigore, una punizione, un intervento, può capitare di tutto. Anche se quelli nell'arco della partita sono scesi magari 3 volte in aria, però in queste 3 volte può succedere di tutto. Tu invece devi giocare e assicurare il risultato, e invece no, fatto un gol e ti sono rilassati. No, andrà bene, così non va bene. Io condanno assolutamente questo atteggiamento della Juve, lo condanno nella maniera più categorica, figurati. Sono d'accordo con te, sfiga ne abbiamo, perché Ronaldo 2 gol li poteva fare, quello di testa si è sollevato 2 metri a terra di nuovo e ha pigliato Rubaru, l'altro lo stesso, gliel'ha parato, era dentro, è un bravo il portiere del Genoa, bravo. Però la sfiga fa parte del gioco, dice quello, no? Purtroppo la sfortuna è sfortuna, se non entra non entra, ma è già da un po' di tempo che potrebbe essere già capocannoniere, non lo è proprio perché c'è un po' di sfortuna, capito? No, entra a palla, e di diri ne va, di azioni belle ne ha fatto, ma soprattutto contro il Genoa ha preso un attraverso un palo, mi sembra. Quindi, cosa vuoi fare? Vabbè, vediamo domani, dai. Vediamo domani se riusciamo a battere anche il Manchester United, vuol dire che la Juve è preparata per affrontare la Champions quest'anno. E bisogna andare avanti così. Giulia, io ti lascio perché mi c'ho a Filippo qua in mezzo alle medie, che da poco fa che entra esce, non mi ero accorto che sono le 8 meno 10 quasi. Quindi adesso mi metto che sono in pigiama, ho fatto doccia, non sono entrato al lavoro, adesso mi metto e porto il cane, dai. E poi si cena. Grazie per le 2 chiacchiere, grazie di tutto come sempre, e ci aggiorniamo domani, magari se sei a casa tra il primo e il secondo tempo la commentiamo, vediamo un po' come va a finire. Ok, grazie Giulio per le 2 chiacchiere, saluti a casa, buona cena, buon tutto e buon fine serata, e un saluto circolare a tutti quelli che sono in ascolto. Vai. Ok, qua grazie anche a te al 100%, vai, saluti anche a te, saluti in casa e grazie per la chiacchierata, a domani, vai, speriamo che coincida, va bene, dai, può essere che magari la la scheda mio fratello la porti qua, perché possiamo fare così anche, no? O vado là a vedere, oppure la porta qua, la scheda, la vediamo qui da me, anche perché il televisore mio è un pochino più grande di quello che ha lui, già è abbastanza grande, molto grande anche quello suo, però il mio è leggermente più grande, non di molto, ma leggermente più grande, io ho un 44 mi sembra, lui mi sembra 42, va bene comunque, dai, ciao Corrado, alla prossima, buona passeggiata, ciao! Ciao, faccio giù, e infatti anch'io la guardo a casa romana, sono giù una randa di sciolucco. Beh, se coincide la commentiamo. Ciao Giulia, alle prossime, bye bye. Ok, ciao, grazie.